vita. Riempimi di te, risana la mia mente. Aiutami, Signore, rendimi parte di te. C'è gioia, c'è pace, sicuro io sono con te. È dolce restare con te. Signore mio Re, è dolce restare con te. Oh mio Signore mio Re. Voglio venire a te, sei mio e lo sai. A prenderti verrò, ti porterò con me. Nel palmo della mano il nome tuo scriverò, mio piccolo fiore, resta per sempre con me. È dolce restare con me, sono il tuo Dio, il tuo Re. È dolce restare con me, sono il tuo Dio, il tuo Re. È dolce restare con te, oh mio Signore, mio Re. È dolce restare con me. Sono